Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in una giornata dove le borse sono tutto sommato tranquille: Milano guadagna lo 0,12, ma Francoforte perde lo 0,30, come Parigi, Londra meno 0,40, l'America meno 0,22%. Parleremo anche di borse, ma soprattutto delle borse americane, di questo movimento un po' strabico, quello che è successo ieri negli Stati Uniti. Da un lato Wall Street, dopo le parole del presidente della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, che ha rassicurato su una politica accomodante, quindi tassi bassi, e comunque continuerà a stampare dollari la Banca Centrale Americana fin quanto sarà necessario. Dicevo, dopo queste rassicurazioni, ieri Wall Street ha chiuso con un nuovo record, come molti di voi sanno. Oggi era l'apertura anche del Sole 24 Ore, nuovo record a 15.548 punti. Oggi ci sta un po' di correzione. Dicevo, questo è un aspetto. Perché parlo di strabismo? Perché dall'altra parte invece la città simbolo dell'industria pesante americana, l'industria automobilistica, ma non solo, Detroit, dove hanno sede le tre grandi case automobilistiche americane, General Motors, Ford e Chrysler, ha fatto richiesta il comune di Detroit di bancarotta. La procedura di bancarotta è la richiesta di bancarotta più grande mai presentata da un municipio nella storia americana. Praticamente la richiesta al giudice federale di accedere al Chapter 9, che regola la bancarotta dei comuni, è stata avanzata dal commissario straordinario di Detroit, Kevin Orr. Praticamente la città è insolvente, non può pagare i suoi debiti. Parleremo di questo. I debiti non sono poca cosa, perché variano tra i 18 e i 20 miliardi di dollari, insomma una manovra finanziaria italiana come debito complessivo. Pensate che Detroit, per inciso, poi ne parleremo, al momento e durante il suo massimo splendore, era la quarta città per importanza di tutti gli Stati Uniti. Questo però quando l'industria automobilistica americana era un'industria diversa da quella che conosciamo adesso ed era leader a livello mondiale. I dati di Detroit invece, quelli che vediamo adesso, sono allarmanti. La disoccupazione è al 18%, in 10 anni è quasi triplicata. Il 40% delle luci stradali non funziona, vigili del fuoco e polizia sono al limite della loro operatività. Ne parleremo più avanti. Parleremo anche però dei casi di casa nostra, e da un lato avremo anche un approfondimento su una vicenda che abbiamo già trattato, quando l'Europa mise dei dazi sui pannelli fotovoltaici di produzione cinese. In tutta risposta la Cina annunciò l'ipotesi di dazi sul vino di importazione europea. E su questo c'è qualche sviluppo, ma soprattutto parleremo poi delle privatizzazioni. Perché il ministro all'economia Saccomanni oggi ha riaperto il tema in un'intervista a Mosca, a Bloomberg TV. Ha detto Saccomanni: non è escluso che il Tesoro decida di cedere quote di società pubbliche, incluse Eni, Enel e Finmeccanica, per ridurre il debito. I sindacati si sono già detti contrari, la CISL è contraria all'ipotesi di cedere quote di Eni, Enel e Finmeccanica, su questo è un'ipotesi che ciclicamente torna e che sta dietro all'ipotesi che per fine anno i soldi della manovra non basteranno e bisognerà trovare altre risorse, come si dice in gergo, non solo per IMU e IVA, ma anche forse per dei conti pubblici in peggioramento, viste le prospettive sul PIL. E allora l'ipotesi è manovra aggiuntiva esclusa dal governo, oppure cessione di asset, di partecipazioni dello Stato. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. E adesso le altre notizie in breve. Allora, i titoli intanto, più 2,75% Prismian e Atlantia, più 2% la Popolare di Milano, più 1,80 Unicredit e Telecom Italia, più 1,70 Intesa San Paolo, più 1,5 Mediobanca, l'1,20 lo guadagna Diasorin, ma anche Snam, Retegas. Contenuti cali, Mediaset meno 1,80, Fondiere Assai meno 1,70 come Finmeccanica, Monte dei Paschi meno 1,60 come Ansaldo STS, Tenaris meno 1,40, Terna meno 1,20, Ubibank meno 1 come Enel Green Power ed Enel, lo 0,90 lo perde invece Fiat. Questa mattina chiusura negativa, in alcuni casi anche parecchio negativa, penso a Tokyo meno 1,5%. Questo ha frenato soprattutto Tokyo perché c'è il rinnovo della Camera, il rinnovo parziale della Camera Alta in Giappone. Ma venendo all'Europa, invece, nel corso dei consueti, parliamo di Grecia, dei consueti controlli estivi, la Guardia di Finanza greca ha scoperto un'evasione fiscale da record nelle isole greche. Pensate che su 1088 ispezioni condotte dal 15 giugno al 15 luglio in ristoranti, bar, alberghi, locali notturni nelle isole di Rodi e Zante, praticamente la stragrande maggioranza degli albergatori non avevano dato scontrini, pagato IVA, avevano fatto false dichiarazioni, falsificato le ricevute e anche non avevano ottenuto i libri contabili. Angela Merkel oggi in una conferenza stampa a Berlino ha detto: non vedo la possibilità di un nuovo taglio del debito greco, però ha anche detto che la stabilizzazione, il processo di stabilizzazione dell'euro impegnerà l'Europa e la Germania anche nei prossimi anni. Abbiamo fatto un buon pezzo di strada, ma la crisi non è ancora superata. L'Italia, lo spread italiano è a 287 punti, è stabile e per fortuna sotto i 300 punti. Per quello che riguarda i dati sulla nostra economia, oggi l'industria segnala un fatturato a maggio in leggerissimo miglioramento rispetto ad aprile, ma ancora in calo del 5% rispetto al maggio dell'anno prima. Gli ordinativi industriali a maggio hanno fatto più 3% rispetto ad aprile, ma sono ancora in calo dell'1,1% rispetto a maggio 2012. E visto che ne stavamo parlando dell'ipotesi avanzata da Saccomanni di cedere alcune quote in Eni e Enel e Finmeccanica, nell'ultimo anno è giusto ricordare che il Tesoro ha incassato un assegno complessivo di oltre 610 milioni come dividendi dalle sue partecipazioni in Eni ed Enel. La cedola è stata di 1,08 euro per Eni e di 0,15 centesimi per Enel. Nulla è arrivato invece da Finmeccanica, che ha chiuso il 2012 in perdita, quindi non ha distribuito utili, cioè dividendi. Il Ministero dell'Economia, infatti, con una partecipazione del 4,34% in Eni, si è visto recapitare un assegno di 170 milioni. Però lo Stato è dentro Eni anche con la Cassa Depositi e Prestiti, che infatti ha il 25% di Eni, 25,7%, e all'80% è controllata proprio dal Tesoro. E la Cassa Depositi e Prestiti ha avuto una cedola da 1 miliardo e 11 milioni di euro. Dall'Enel il Tesoro ha avuto, il Tesoro è il principale azionista dell'Enel, ne ha il 31,2% e ha incassato 440 milioni. E anche questo va considerato quando si parla di privatizzazioni, lo dico poi, ne parleremo fra un'ora, però va considerato in primo luogo il momento di mercato, perché in questo momento forse i titoli si rischia di svendere o vendere a basso prezzo, Enel ed Eni o Finmeccanica, ma dall'altro bisogna anche fare bene i conti, perché più quote cedi, meno dividendi incassi, perché riduci la tua quota come Stato, come Tesoro dentro Eni ed Enel, e quindi bisogna capire anche qual è poi la differenza tra l'incasso che hai nel cedere una quota, ma anche i dividendi a cui rinunci per gli anni futuri. Un'ultima notizia che a me sembra più che positiva. Via libera in commissione alla Camera allo sconto del 30% sulle multe automobilistiche se pagate entro 5 giorni dalla contestazione. Non è poco il 50% di sconto, il 30% di sconto, Basta pagare entro 5 giorni, lo ha annunciato il ministro dei trasporti Lupi, che ha commentato con un tweet l'accoglimento della proposta che era inserita nel decreto del Fari, il famoso decreto del Fari. (3) 349 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora partiamo con il primo tema e mi riferisco a questa doppia notizia diametralmente opposta che è arrivata ieri dall'America. Wall Street va a record da un lato, ma Detroit, il comune di Detroit, va in bancarotta e crea la più grande bancarotta di un comune americano nella storia degli Stati Uniti. Come si tiene assieme, come si spiega un'economia che vede da un lato la borsa Wall Street sulla scia delle rassicurazioni del presidente della banca centroamericana Ben Bernanke chiudere con un nuovo record storico a 15.584 punti, e come si tiene questa borsa assieme a una città come Detroit dove hanno sede le tre più grandi case automobilistiche americane, General Motors, Ford e Chrysler, che schiacciata da un debito che oscilla tra i 18 e i 20 miliardi di dollari chiede il Chapter 9, la bancarotta, ed è una città in cui la disoccupazione in 10 anni è passata dal 7,6% al 18%, gli abitanti sono scesi da 2 milioni degli anni 50 a 800 mila, interi quartieri come la zona del 8 Mile Road sono svuotati, quella del rapper Eminem, forse potevamo mettere anche Eminem, non mi è venuto in mente, il 40% delle luci stradali non funziona, vigili del fuoco e polizia sono al limite dell'operatività, gli agenti rispondono al numero delle emergenze, il 911, con quasi un'ora di ritardo contro una media negli Stati Uniti di 11 minuti. Come stanno assieme le due cose? Intanto ascoltiamo il governatore del Michigan, Rick Snyder, annunciare la crisi di Detroit, e la richiesta di procedura di bancarotta. Today I authorized the emergency measure for the city of Detroit to seek federal bankruptcy protection. Oggi ho autorizzato le misure di emergenza in modo che Detroit sia sotto l'ombrello di protezione federale. È stata una decisione difficile e dolorosa, ma penso che non ci fossero altre strade percorribili. Perché è stato compiuto questo passo e quale sarà l'impatto per la città e per il Michigan? Innanzitutto, questa è una situazione di declino che si protrae da 6 anni. Dal punto di vista finanziario, voglio essere chiaro, Detroit è fallita. La situazione non è più sostenibile. E ancora più importante della situazione finanziaria è la mediocrità dei servizi forniti ai cittadini di Detroit. Meritano di meglio. Se poi si guarda la sicurezza pubblica, Detroit negli ultimi 27 anni è comparsa per ben 24 volte nella classifica delle 10 città più violente. Il tempo di risposta degli agenti ad una chiamata è di 58 minuti contro una media nazionale di 11. Ma potrei citare altri casi. E questo non è giusto per i cittadini di Detroit. Credo che la bancarotta sia un'opportunità per un nuovo inizio, per fare promesse credibili e cercare di ripagare i debiti ai creditori. Ancora più importante è mettere a punto un piano di investimenti per la città che porti a servizi migliori per i cittadini. È una cosa assolutamente importante e che meritano. Lo stato del Michigan tornerà a essere un grande stato solo se Detroit tornerà ad essere una grande città. È un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma andiamo avanti e cerchiamo di farcela insieme. Let's move forward and get this done together. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. Eminem, che ha raccontato, come dicevo, nelle sue canzoni anche questa 8 Mile Road. Allora, Mario Platero, che ieri notte mi ha svegliato alle 2 di notte per dirmi che c'era stato il crack di Detroit. Mario, buonasera. Eccoci Sebastiano. Che Dio ti benedica. Allora, le 2 di notte sono diventate le mie 3 del mattino, poi, per cui ho capito. Ovviamente lavoriamo un 24 hours. Sì, 24 hours, dice. Solo 24 hours, vabbò. Senti una cosa, ma com'è possibile che nel momento in cui Wall Street festeggia, insomma, arriva un nuovo record storico, una città come Detroit, dove tra l'altro le 3 case automobilistiche si sono rimesse in piedi, non sono più, diciamo, in ginocchio, dichiari bancarotta? Abbiamo letto delle cose che ricordano più la situazione greca, con massimo rispetto, che non quella americana. Certo, sì, hai ragione, e sicuramente l'impatto emotivo di questa cosa è molto più forte di quello concreto, pratico, che può esserci sui mercati, perché ti dirò che la situazione di Detroit è drammatica non da anni ma da decenni. È vero che ci sono le 3 grandi case automobilistiche, però ormai non sono più a Detroit, gli impianti alcuni sono in Canada, sono al di là del fiume, altri sono lontani da Detroit, sono nei sobborghi. Ci sono una serie di elementi che hanno contribuito a questa situazione, e era scontato che in qualche modo Detroit potesse fallire, e infatti se tu oggi vedi le reazioni dei mercati, non sono state assolutamente delle reazioni negative. Non è che questa sia stata una... La borsa va avanti, l'America nel suo insieme va avanti, aggiungo persino le case automobilistiche vanno avanti, migliorando la loro situazione. Una cosa che mi ha colpito è che, pensa, appena qualche giorno fa c'è stato un articolo in prima pagina sul New York Times che raccontava la storia dell'impianto di Jefferson, un impianto della Chrysler che fa le Cherokee, le Grand Cherokee, è un modello della Dodge. Ed era un impianto modello, e quindi raccontava come sono passati da un turno a 3 turni, da 1500 persone a 4000 persone, hanno assunto quindi molti più dipendenti, questo nel giro di appena 4 anni. E questo impianto è l'unico rimasto a Detroit, diciamo, in quello che è considerato un più centro cittadino, perché tra l'altro la dimensione della città, parlo del centro cittadino, è enorme. Pensa che è l'equivalente di Manhattan, del centro di San Francisco e di Boston messe insieme, e una volta ospitava 2 milioni di persone, adesso ne ospita 700.000. Se vogliamo andare indietro nel tempo, un punto di riferimento storico furono i riots che ci furono nel 67, le rivolte, 67, sì. Il 23 luglio del 67, ecco lì la città si svuotò, la popolazione bianca andò nei sobborghi, insomma, e fu lì il vero cambiamento per la città. Quindi parliamo di oltre 40 anni fa. Ecco Mario, io ho una domanda per te, per quello che riguarda Detroit, chiaro, ma molti ascoltatori dicono, ma insomma, noi quando abbiamo avuto problemi di bancarotta dei comuni, tutti citate Catania, i 200, a me sembrano 300, comunque 200 milioni di euro dati a Catania, insomma, da noi i comuni, purtroppo, per fortuna, secondo me anche purtroppo delle volte, non fanno mai bancarotta, vengono commissariati, comunque i soldi si trovano, perché poi c'è un problema elettorale e chi ha interessi elettorali in quel comune tende a spingere. In America come funzionerà? Cioè, adesso che loro hanno dichiarato bancarotta, come li pagano gli stipendi? Beh, adesso dunque sono in Chapter 9, e quindi è la procedura che noi chiameremmo di amministrazione controllata. È una procedura che prevede la ristrutturazione, la riorganizzazione di questo debito, e nel momento in cui tu non hai più il servizio sul debito di questa enorme quantità di denaro, 18 miliardi di dollari, e tu a quel punto cominci a respirare, magari riesci a lavorare anche con le banche, riesci a ottenere degli aiuti federali e quindi vai avanti. Per questo Orr, che è il commissario, perché non dimentichiamolo, la città poi era stata anche lei commissariata, come succede ad alcune città italiane, ha detto state tranquilli che nei limiti del possibile tutti i servizi cittadini, e aggiungo ci sono anche le scuole ovviamente, continueranno a funzionare. Ma il vero problema, vedi, è che questa città è una città che, essendosi trovata con una grande disoccupazione, perché la casa automobilistica ha cominciato a andare molto peggio, e non c'è stata una trasformazione come abbiamo visto a Cleveland, per esempio, come abbiamo visto a Pittsburgh, altre città del vecchio nord industriale che a un certo punto si sono trovate in grande difficoltà, ma sono passate ai servizi. Ecco, questo Detroit non l'ha fatto, ha assunto molto, pensa che c'è praticamente un dipendente pubblico per 55 abitanti, quando la media americana è intorno a 1 per 120, 130. Ecco, scusami 140. Mario, però quindi c'è una gran quantità di persone che sono state assunte dalla municipalità proprio per dargli un lavoro, e i sindacati non sono mai venuti a patto, perché ci sono stati molti momenti in cui si poteva fare qualcosa. Ecco, le rigidità, questa è una città industriale, una città che era abituata al contenzioso, paradossalmente sono state molto più dure sul fronte dei dipendenti pubblici che su quello dei dipendenti delle case automobilistiche. I dipendenti delle case automobilistiche hanno sofferto, hanno subito dei tagli, hanno visto ridotti gli stipendi, ma adesso stanno andando avanti. E la città invece è rimasta rigida ed è fallita. Beh, a dimostrazione che negli Stati Uniti delle volte paga più il dipendente pubblico del privato, perché insomma le tre grandi colossi americani, General Motors, Ford e Chrysler, si sono rimessi in piedi. La città, come tu raccontavi, non ha avuto la forza, anche l'amministrazione cittadina, non è colpa solo degli abitanti, ci mancherebbe, di reinventarsi. È strano, l'unica cosa, volevo concludere su questo, Mario, perché solo 2 anni fa Detroit sembrava protagonista di un grande rilancio, di un grande boom. Io mi ricordo lo spot per il Super Bowl, che è la partita di football americano, quella che è più vista da tutti gli americani, del 2011, lo spot era Chrysler, quello di Sergio Marchionne, da 9 milioni di dollari per presentare la nuova auto, la Chrysler 200, lo slogan imported from Detroit. Insomma, sembrava che stesse soffiando un nuovo vento in quella che è già battezzata da Windy City, la città ventosa. Certo, ecco, no, non dobbiamo però confondere, diciamo, quella che è Detroit come immagine di capitale americana dell'auto con Detroit, che invece è la città. Ti faccio un esempio: anche a New York noi diciamo Wall Street, e per Wall Street intendiamo ovviamente Wall Street downtown, nella punta meridionale di Manhattan. In realtà Wall Street, nel senso più lato del termine, si è spostato, non è più lì, è vero, la borsa resta lì, ma le grandi banche sono tutte downtown e così via, così via. Quindi lo stesso è successo a Detroit, cioè quello che è rimasto un guscio vuoto, una città spenta, una città con palazzi così in rovina, mentre invece l'industria dell'auto si è spostata in periferia, i lavoratori dell'industria dell'auto si sono spostati con loro nei sobborghi, e quindi tu hai un buco nero al centro e poi un relativo benessere intorno. La sfida è difficile, proprio per quello che ti dicevo, non c'è stata una trasformazione industriale, non c'è stata una flessibilità per poter consentire che si facessero altri business, e dunque a questo punto i nodi sono venuti al pettine e i conti si pagano. Grazie a Mario Platero. Io non capisco chi gli scrive, ma cosa ce ne fregano di Detroit, a parte il fatto che abbia pazienza, mica è obbligato a sentire il programma, ma dico, insomma, questo è il caso di una bancarotta, di una città da 1 milione di abitanti quasi, 18-20 miliardi di buco, capitale dell'auto. Secondo me è interessante vedere cosa fanno gli Stati Uniti in questi casi, visto che noi siamo sempre qua a ripianare i buchi delle cattive amministrazioni, perché poi hai voglia il patto di stabilità interno, tanto nessun comune dichiara bancarotta in Italia, ripeto, non per motivi elettorali. Abbiamo salvato anche Catania, che aveva 300 milioni di euro di buco, no, per la gestione, non tra l'altro da città svizzera che diceva, beh, hai speso tanto troppi soldi, ma almeno tutto funziona. E allora su questo, secondo me, anche ascoltare cosa succede in quella che tutti, a cui tutti si riferiscono come l'esempio dell'economia di mercato, è interessante. Detto questo, a mio avviso qualche lezione anche dagli Stati Uniti, anche su questo, si può prendere, se qualche politico ha ascoltato. O facciamo che in Italia paga solo il settore privato e il settore pubblico, bene che vada, blocchiamo il turnover, ma insomma, no? Vabbè, da Detroit a Wall Street il passo è breve, ma soprattutto la borsa, che ha appena chiuso con Milano più 0,44%, la migliore oggi tra le borse europee. Parigi meno 0,11%, Francoforte invariata, Londra meno 0,30%, l'America meno 0,14%. Dopo il meteo commenteremo i vari titoli, ma intanto ve li do: Ansaldo STS -1,80, Finmeccanica -1,60, come Fondiaria SAI, Monte dei Paschi -1,4, come Mediaset, Tenaris -1%, Ubibanca -0,80. Prismian +3%, Atlantia +2,80, Unicredit +2,20, come Telecom Italia, il 2% lo guadagna la Pop Milano, ma anche Intesa San Paolo, l'1,40 di Assorin, l'1,30 Mediobanca, ma anche Snam, lo 0,80 Luxottica e Azimut +0,45%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, il meteo e poi il commento di Borsa. Sette 36 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Adesso avete detto, avete ragione, Windy City e Chicago, ho letto male io, avete ragione, chiedo venia, quando sbaglio ci mancherebbe. Dicevo, dopo aver parlato di Detroit e di come l'America gestisce un comune che va in fallimento, che è schiacciato dai debiti, adesso parliamo della borsa, poi arriviamo alla vicenda dei dazi cinesi sul Made in Italy, sul Made in Europe, di carattere agroalimentare, il vino in primo luogo, e poi l'ipotesi di Saccomanni di cedere alcuni dei gioielli delle partecipazioni statali, e quindi Eni, Enel e Finmeccanica. La borsa quindi, allora, buona la giornata a Milano più che altrove, devo dire nulla di preoccupante come cali, ma insomma le altre borse sono tutte leggermente negative. Paolo Paronetto, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, come mai da noi così bene i bancari, lo spread a 2,87? Sì, lo spread in discesa, e poi c'è da dire che c'è stato un giudizio positivo di una banca d'affari, in questo caso Goldman Sachs, che ha fatto, in questo caso si tratta di un'analisi a 360 gradi proprio sul nostro intero sistema bancario, soprattutto per quanto riguarda i crediti deteriorati, cioè ha fatto una serie di test per vedere come reagirebbero le banche se peggiorasse ulteriormente la qualità del credito, e diciamo che le banche migliori, quelle che ne sono uscite meglio, soprattutto che hanno più possibilità di crescere secondo Goldman, sono Unicredit e BPM, che infatti sono state le due banche migliori sul listino oggi. Unicredit ha chiuso a più 2,23% e la BPM a più 2,07%. Ancora per quello che riguarda gli altri titoli, com'è reagito Rizzoli Corriere della Sera alla notizia che è arrivata ieri, che è uno di quelli che hanno comprato durante l'aumento di capitale per il gruppo Rizzoli Corriere della Sera, l'inoptato è proprio Urbano Cairo, neo proprietario della 7, al 3% a questo punto. Questa notizia è tornata ovviamente a mettere la RCS su tutti i riflettori. Un nuovo azionista nel capitale ha solleticato l'attenzione del mercato. RCS ha chiuso in rialzo del 6,7%, facendo segnare una delle migliori prestazioni dell'intero listino. Ricordiamo che Cairo ha annunciato di aver acquisito il 2,8% del capitale del gruppo, ha minimizzato l'operazione parlando di una piccola e partecipazione, ma ovviamente sul mercato si scatenano già le analisi sui possibili futuri nuovi equilibri nell'azionariato. Ecco Paolo, visto che ne parleremo nella seconda ora, l'ipotesi avanzata dal ministro Saccomanni di cedere alcune quote di Finmeccanica, Eni ed Enel, come, che effetto ha avuto sui titoli? Ha pesato soprattutto su Finmeccanica, che è stato uno dei peggiori titoli oggi a Milano, società ovviamente in difficoltà di recente anche per altre questioni, che oggi ha scontato appunto questa dichiarazione di Saccomanni, ha chiuso in calo dell'1,64%. Notiamo che Saccomanni proprio adesso, in questi minuti, ha un attimo tirato il freno, dicendo che, precisando di non aver mai citato nessuna società specifica, però diciamo che il tema oggi in borsa è stato sentito. Anche i sindacati hanno risposto. Certo, tutti hanno risposto, anche Enel ha chiuso in calo -0,75%, sul finale si è salvata invece l'Eni, che è riuscita a chiudere in lieve rialzo +0,18%. Sì, diciamo che la vecchia regola è sempre la solita, queste operazioni prima si fanno e poi si annunciano, nel senso che sennò il rischio è di speculazioni sul titolo, ma anche non solo verso l'alto, ma anche verso il basso, per cui insomma, meglio stare zitti, e se proprio si fa, tanto una cosa del genere di solito la collochi agli istituzionali, no? Se certo. devi farla, non è che vai al grande pubblico e dici la fai con pacchetti per gli investitori istituzionali, che poi sono i grandi fondi, le grandi banche, e allora gestisci l'operazione e poi l'annunci. Non ha senso creare maretta subito. Detto ciò, andiamo avanti. Telecom ieri aveva toccato dei minimi storici, il titolo insomma non se la passa bene, e anche il gruppo forse. Oggi recupera qualcosa? Sì, oggi infatti ha recuperato qualcosa. Secondo gli operatori si tratta proprio di un rimbalzo tecnico dopo i minimi di ieri, ha chiuso in rialzo del 2,16%. Naturalmente il mercato attende notizie dai conti, prima di tutto per capire come sono i trend soprattutto sul business italiano, oltre che ovviamente novità sul fronte della rete, che dal cui il mercato guarda da tempo. Finora non si è riusciti a prendere posizioni proprio perché non si capisce intanto quali sarebbero le regole e inoltre quali sarebbero gli effetti economici sulla società, e si attende appunto novità concrete su questo, e intanto gli investitori al momento scelgono, preferiscono essere prudenti. Ancora sui titoli, oggi bene Atlantia, che è l'ex Autostrade per l'Italia, si era mossa bene. Prismian, l'ex Pirelli Cavi, fa più 3,08%, il miglior titolo Atlantia più 2,80%, sopra i 13 euro per azione. Sì, qui Atlantia ha beneficiato della notizia arrivata ieri, nonostante un calo nel traffico registrato dagli ultimi dati. Ieri Standard & Poor's ha annunciato che nonostante il downgrade dell'Italia, il rating su Atlantia viene confermato, e quindi in questo momento il rating di Atlantia è superiore di un gradino a quello del paese. Una notizia positiva, dato che molti titoli, ad esempio i bancari, invece erano stati downgradati anche loro sulla scia del downgrade dell'Italia. Atlantia invece il giudizio resiste, e questo avrà un impatto positivo soprattutto sul debito di Atlantia, che sarà quindi meno costoso di quello di altre società. E l'outlook sul giudizio sul titolo è invece negativo, e questo proprio riflette il rischio di possibili nuovi downgrade dell'Italia. Ma naturalmente abbassamenti certo. di voto certo sull'Italia. Allora, altri titoli, bene il lusso più 0,77%. Luxottica oggi, Tod's più 0,25%, invece tra i titoli bancari che perdono, cito Monte dei Paschi meno 1,45%, ma qui ancora l'apertura delle quote della fondazione? Sì, diciamo che dopo l'assemblea di ieri il mercato sta aspettando di capire cosa succede, e ricordiamo anche quanto è emerso ieri l'esigenza di un rafforzamento patrimoniale della banca nei prossimi tempi, e quindi naturalmente diciamo che rimane un sorvegliato speciale in attesa di capire se questa apertura delle quote avrà effetti concreti nel breve periodo, se ci sarà qualcuno magari intenzionato a entrare nel capitale anche per favorire il rafforzamento della banca, oppure se non ci sarà nessuno sviluppo concreto il mercato prende tempo. Ancora, dicevo, tra i titoli, oltre a Monte dei Paschi, Mediaset meno 1,43%, ma viene da sedute in netto rialzo, Tenaris meno 1,1%, UbiBanca appunto meno 0,80%, DNL hai già detto tu, poi c'è G-Tech meno 0,70%, migliori e peggiori in assoluto, High Real meno 7%, investimenti e sviluppo meno 5%, Arena meno 2,94%, come vedete poco mossi anche i migliori e peggiori, al di là del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, che sale su tutto, perché sale sia sul risparmio B, sul risparmio e sulle ordinarie, tra il 7,20% e il 6,70%, bene anche Seat Pagine Gialle più 7,30%, Telecom Italia Media più 6,13%, risanamento più 9,5%. Grazie a Paolo Paronetto, e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Colle sulle 24 ore. Grazie a voi. Qualcuno si ricorda cosa capitò dopo che l'Europa decise di aumentare i dazi sui pannelli solari prodotti dalla Cina? Un export per la Cina che vale 20 miliardi di euro, anche perché noi molti di questi pannelli li compriamo proprio dai cinesi. e le imprese cinesi hanno l'80% a questo punto della quota di mercato in Europa di pannelli solari, non sempre di qualità buona come quelli europei, però tant'è. Capitò che la Cina disse: va bene, adesso noi aumentiamo i dazi sul vostro vino, sul vino di importazione europea. E siccome lì c'è una concorrenza molto forte che arriva dall'Australia e dal Cile, e siccome quello è un mercato che sta creando 200-225 milioni di neoborghesi, che si spera berranno vino, compreranno moda italiana, mangeranno prodotti italiani e berranno vino italiano, il tema è delicatissimo. C'è un'iniziativa adesso, anche perché forse si è vicini a un accordo di scambio, diciamo, tra i dazi sui pannelli solari e i dazi sul vino europeo. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Sì, dico che forse si arriva a un accordo con la Cina, un accordo delicatissimo, perché secondo fonti vicine all'Unione Europea e alla Cina si è molto vicini a chiudere la partita sulla disputa dei dazi appunto europei al fotovoltaico cinese. Il gap è molto piccolo. Una volta risolta la questione del prezzo, sui negoziati ancora in corso, restano aperti altri nodi, quello del volume ancora da concordare, della durata delle misure. I tempi stringono però per Bruxelles, perché la scadenza è il prossimo 6 agosto. Se non si arriva a un accordo con la Cina, tra Unione Europea e Cina, entro il prossimo 6 agosto scattano i dazi sul fotovoltaico cinese, che passano dall'11,8 a una media del 47%. E ripeto, l'accusa poi, stranamente, pochi giorni dopo la Cina accusò l'Europa di sovvenzionare le sue esportazioni di vino verso la Cina. C'è un'iniziativa presa assieme a 7 associazioni legate al settore viticolo nazionale, presa da Federvini, con una lettera importante. Chiedono un maggiore impegno del governo italiano in merito proprio all'indagine antidumping e antisussidi sull'importazione dei vini europei in Cina. Lamberto Gancia, presidente Federvini, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, a che punto siamo? Perché qua, se entro il 6 agosto l'Europa non chiude con la Cina fa scattare i dazi come ritorsione. Questo mi sembra. Ma guarda, prima di tutto ho fatto questa lettera e devo dire che già il giorno dopo che è uscita questa indagine il ministro mi ha chiamato personalmente per... Chi, scusi? Il vice ministro Calenda del Mise, per trovare un'azione di supporto alle imprese italiane, perché ricordo che non sono ancora aumentati i dazi, ma è partita questa indagine. L'indagine, come è stato ben spiegato, è politica, bisogna prima risolvere i dazi, e i cinesi molto intelligentemente, furbamente, sono un anno che si studiano le sovvenzioni dei vini europei, e hanno utilizzato questa arma perché sanno che ci sono sovvenzioni che in verità non vanno a abbassare i prezzi, ma per fare promozione, quindi alla fine può essere poi un danno forte per gli importatori e distributori cinesi, che in verità stanno prendendo risorse anche per importare e fare business. Allora, noi a livello di governo italiano abbiamo fatto questo primo step nel creare un desk di aiuto alle imprese per fare questi documenti e tradurli attraverso l'ufficio del Lice in lingua cinese entro il 21 di luglio. Bisogna far arrivare documenti originali al governo cinese per integrare e collaborare tutte le imprese, onde evitare che le imprese che non si iscrivono abbiano poi l'eventuale tariffa massima. A questo punto ci siamo anche mossi con De Gauche, con chiaramente la nostra associazione europea di cui Federvini fa parte, che io ho presieduto per più di 9 anni, per fare in modo di intanto inserire i vini nella negoziazione, fare in modo che come ci si mette d'accordo su questa tariffa minima sui pannelli solari, ci sia anche il vino che esca automaticamente fuori da questa indagine. Il vero rischio è che l'indagine continui e debba andare al WTO a dimostrare che non c'è nessun problema, perché le sovvenzioni che ha il vino europeo non è per abbassare i prezzi, ma appunto per promuovere, educare il consumatore a un consumo più responsabile e sfruttarci per i tanti territori europei. Ecco, questo per quello che riguarda, insomma, voi sperate di uscire, diciamo, dall'effetto anche in qualche modo ritorsione su questo. Quanto è importante la quota di mercato cinese per i vini europei e anche quelli italiani? Ma sta crescendo a due cifre, quindi chiaramente in questo gioco il grosso del mercato ce l'hanno i francesi, che sono chiaramente i primi a essere preoccupati. Poi ci sono gli italiani e gli spagnoli che hanno un grosso mercato, anche i portoghesi che sta crescendo. 60 milioni di euro stimiamo, 60 di 80 tutto il mercato, quindi ancora in grossa crescita a due cifre, e le cifre dei primi mesi di quest'anno sono in crescita soprattutto a valore. Chiaramente questo sarebbe un'autostrada, come è stato detto bene, per i vini cileni, che hanno un accordo bilaterale già direttamente con la Cina rispetto all'Europa, mm-hmm. e anche per gli australiani, quindi sarebbe un danno forte a tutto il lavoro di costruzione, lavoro che stiamo facendo, che i nostri imprese stanno facendo su questo mercato. Ecco, però, per dire tutta, e per concludere, Lamberto Gancia, c'è chi scrive, allora io sono stato spesso a Shanghai in questi anni, obiettivamente la presenza dei marchi italiani rispetto, ma noi mancano i grandi gruppi, ragazzi, qui non ci possiamo prendere in giro delle volte, la presenza dei marchi italiani è ancora debole, cioè in effetti i francesi dominano su alcune cose, le grandi catene americane anche del food and beverage su altre, la ristorazione anche lì siamo i grandi marchi, all'Italia viene riservato certo un ruolo importante nel lusso, vedete, però insomma mi piacerebbe vedere numeri più grossi, ci sono imprese italiane che sono mosse, la Rana, Luxottica, mi dica. Si sta un po' verificando quel che è successo in America. Prima aprono i francesi che rappresentano la storia e l'immagine. I vini italiani però piacciono, hanno un buon rapporto qualità-prezzo e hanno una grossa varietà di gusti, di profumi e di opportunità di mercato. Il sistema paese, anch'io ho fatto parecchie missioni in Cina, sia con la Commissione europea che con il governo, che anche a livello imprenditoriale, e l'immagine paese deve fare squadra, quindi sfruttare l'unicità e le eccellenze che abbiamo, perché il mondo moda italiano sta avendo un grande successo, il vino segue, il design, è vero che le catene italiane non sono presenti, però le stesse catene francesi per vendere i prodotti poi devono fare education, sì. E l'80% del mercato è ancora in mano ai ristoranti locali, quindi bisogna anche trovare l'importatore distributore che ha introdotto, che fa education e che fa squadra con le imprese italiane. Io però prevedo nei prossimi anni, ed ecco perché ci stiamo muovendo in tutti i modi per bloccare questa azione di antidumping, prevedo una grossa opportunità di mercato e di crescita nei prossimi anni. Ecco, voglio essere chiaro, siccome l'export italiano dell'agroalimentare vitivinicolo è una delle cose che tira di più in questo momento ed è l'unico settore di tutti i settori produttivi italiani che non ha conosciuto la crisi, so che voi non siete d'accordo perché avete avuto cali anche nel mercato interno, però complessivamente le imprese che lavorano nell'agroalimentare e nel vitivinicolo stanno molto meglio di altre imprese manifatturiere. Certo, si vende più all'estero. Avete le quote export e poi è difficile delocalizzare il vino, nel senso che tu un stabilimento puoi portarlo in Romania, in Turchia o in Cina, una vigna è un po' più difficile. No, la vigna è legata al territorio, ci sono dei disciplinari, no, lo so. È impossibile. È un grosso vantaggio che avete, Gancia, anche perché portarla, impiantarla e farla crescere passano degli anni. Però attenzione, anche voi dovete fare un po' più massa critica, a mio avviso, quello che voglio chiarire però agli ascoltatori è che quando parliamo poi di vino, parliamo in realtà di tutto il Made in Italy, perché il vino porta con sé il cibo italiano, porta con sé la ristorazione, porta con sé tutto l'Italia, cioè quello che abbiamo visto negli altri paesi è questo, parte la ristorazione italiana, il modo di vivere italiano si lega alla moda, al design, al cibo, cioè se non ci agganciamo a questo con 1 miliardo di cinesi, di cui 220 milioni già con potere d'acquisto simile a quello europeo, ragazzi, non ne usciamo con i consumi di casa nostra. Grazie, in bocca al lupo per la trattativa al Grazie. Presidente di Federvini, Lamberto Valerino Gancia. Grazie, saluti a tutti. è pazzesco, perché questo ormai è un paese di malfidenti. Ho fatto tempo a leggere prima la notizia che il ministro dei trasporti Maurizio Lupi ha confermato che nel decreto del fare ci sarà la possibilità, perché è arrivato via libera in commissione alla Camera, dello sconto del 30% sulle multe automobilistiche se vengono pagate entro 5 giorni. Oh, molti di voi cosa mi hanno scritto? Vedrai che le multe aumenteranno del 30% come valore, ma no. Abbiamo un po' di fede ogni tanto. Invece mi sembra una buona iniziativa. La paghi entro 5 giorni, l'amministrazione ha meno costi, tu hai un vantaggio del 30% in meno sulla multa. Dopo il GR invece ci occupiamo dei gioielli di famiglia, Eni, Enel e Finmeccanica. Saccomanni si sta un po' correggendo, ma il tema resta sotto traccia: come reperire le risorse se non dovessero bastare quelle della manovra finanziaria. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di quest'ultima puntata della settimana di Focus Economia. E allora, poco fa il ministro Saccomanni ha non rettificato, ha precisato, anzi una nota del Ministero del Tesoro: specifiche ipotesi di vendita riportate da organi di informazione non sono state formulate dal ministro. Il ministro ha parlato di strategia di riduzione del debito formulando diverse ipotesi di valorizzazione del patrimonio pubblico senza mai citare specifiche società. Allora, traduco: erano ipotesi ma non si sono fatti i nomi. Ho capito, però nel momento in cui, abbiate pazienza, nel momento in cui in un'intervista da Mosca a Bloomberg TV il ministro dice: non è escluso che il tesoro decida di cedere quote di società pubbliche, è chiaro che tutti pensano a che cosa pensi? Pensi a Eni, Enel e anche a Finmeccanica, tant'è che poi i sindacati, la CISL in primo luogo, ha detto: siamo contrari alla vendita sia di Eni che di quote di Eni, di Enel e di Finmeccanica. Ma vediamo di capire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di tre gruppi per cui e da cui il tesoro quest'anno, lo Stato italiano quindi quest'anno, avrà da Eni ed Enel 610 milioni di cedole, di dividendi, ma dall'Eni ne avrà di più, perché il tesoro ha direttamente il 4,34% di Eni. Ma poi la Cassa Depositi e Prestiti, che è controllata all'80% dal Ministero del Tesoro, ha un altro 25,7% di Eni, da cui avrà 1 miliardo e 11 milioni di dividendo, cioè di utili distribuiti da Eni. Da Enel invece il Tesoro avrà 440 milioni di euro di dividendi, visto che controlla il 31% di Enel. Non avrà nulla come dividendi da Finmeccanica, perché il gruppo ha chiuso in perdita e non ha distribuito quindi gli utili. Laura Serafini del Sole 24 Ore, buonasera Laura. Buonasera a voi. E buonasera, grazie anche a Gustavo Piga, che insegna politica economica all'Università di Tor Vergata. Buonasera professore. Buonasera, come sta? Bene, lei è l'unico che me lo chiede ogni volta, vabbè. Laura, impara da Piga, lui mi chiede come sto, non tu. E come stai? Te lo chiedo anch'io. Se ne frega. Allora, andiamo avanti. Poi arriviamo al punto politico, perché voglio dire, Saccomanni ha corretto il suo pensiero, però è settimane che i giornali riportano ipotesi di manovra correttiva, 12 miliardi, 14 miliardi. È chiaro che sotto traccia c'è l'ipotesi che la manovra messa in atto possa non bastare, con un peggioramento del PIL che farà meno 1,9% quest'anno l'Italia, e magari anche per trovare le risorse per IMU e IVA, perché per ora abbiamo solo rimandato l'applicazione. Comunque Laura, restiamo sulla notizia. Ogni tanto anche Saccomanni ci ha messo del suo, però è una notizia che ciclicamente riappare. È verosimile in questo periodo, con questi livelli di prezzo e considerato il fatto che il tesoro, che lo Stato già guadagna da queste partecipazioni perché si becca i dividendi? Secondo me, diciamo che più che parlare di verosimiglianza, parliamo di percorribilità di queste operazioni in questa fase. diciamo che è alquanto difficile, direi anche sconsigliabile, perché in questo periodo, insomma, vendere potrebbe voler dire portare a casa alla fine pochi soldi, e quel guadagno potrebbe essere vanificato in termini di riduzione del debito pubblico a lievi flessioni del PIL che vanno a deteriorare il rapporto debito PIL. Tra l'altro, tu prima, parlando di dividendi, stavi mettendo un po' il dito anche su un aspetto importante, cioè qui stiamo parlando ipoteticamente di cedere quote di Eni, di Enel, di Finmeccanica, quando ad esempio la quota importante che lo Stato ha nell'Eni appunto appartiene alla Cassa Depositi e Prestiti ed è lei la cassa che percepisce buona fetta dei dividendi dell'Eni. Quindi che cosa significa? Che lo Stato si va a riprendere la quota dalla cassa per poi rivenderla? Cioè, insomma, ci sono anche degli aspetti di percorribilità che sono interessanti. Diciamo, insomma, che sembrano più ipotesi, anche perché Finmeccanica, come giustamente tu hai detto, non paga dividendi e versa in condizioni abbastanza complesse. Abbiamo visto quest'anno tutta la vicenda delle inchieste, la difficoltà di procedere alle nomine, cioè la vendi ai minimi. E anche Enel è in una fase abbastanza difficile, con un piano industriale molto, diciamo, impegnativo a base di dismissioni e quant'altro, perché la crisi l'ha messa a dura prova, l'ha messa a dura prova in Italia, l'ha messa a dura prova in Spagna. Quindi, insomma, non è proprio il momento idilliaco per andare a fare delle operazioni su queste società in particolare. Poi, se si parla di altre società, può darsi che qualcosina si potrebbe anche fare, ma lì bisogna poi capire se c'è chi ha parlato di cessione di parte del demanio, delle proprietà dei beni, di proprietà dello Stato, ma non vorrei sfuggire al tema di fondo, Laura, poi ne parleremo con Piga. Tutto questo nasce su quale ipotesi? Sull'ipotesi che con questa manovra il deficit non resti sotto il 3%, perché parliamoci chiaro, se no neanche staremo a parlarne. Laura. I proventi delle privatizzazioni vanno al fondo ammortamento titoli di Stato, per cui se tu vendi delle quote va sul debito. No, per legge devi andare lì, cioè vai, certo, a ridurre il debito pubblico, punto. Quindi qui il tema manovra non si pone. Dove si potrebbe porre il tema manovra? In un passaggio del discorso che sembrerebbe oggi il ministro aver fatto con l'agenzia Bloomberg, cioè quando ha detto potrei usare i titoli di queste società come collaterale, come garanzia per finanziarmi sul mercato magari a tassi leggermente più bassi rispetto a quelli che sconto con le operazioni sui titoli di Stato, perché magari, ad esempio, per dire, l'Eni ha un rating che è più alto di quello della Repubblica, no? Cioè, cerco di spiegare a tutti, cioè lo Stato italiano per ottenere prestiti dà come garanzia azioni dell'Enel che hanno un rating, un voto più alto, in questo modo dovrebbe dell'Eni, perché l'Enel è allineata. dell'Eni ho detto, scusami, forse ho capito male, ma dell'Eni, perché in questo modo l'Eni, avendo un voto più alto, a quel punto ti garantisce di trovare compratori, finanziatori per il tuo debito a tassi di interesse più bassi, quindi garanzia collaterale. Prego, Laura, ti ho interrotto. Sì, insomma, diciamo che potrebbe essere una specie di parente di un'emissione di un bond convertibile, cioè io ti chiedo a te investitore dei soldi e ti dico che, non so, da qui a 7 anni io posso o ridarti i soldi oppure darti le azioni di una società, no? È un'operazione che ha quindi dei titoli che sono liquidi sul mercato come garanzia, l'investitore potrebbe essere allettato a darmi dei soldi magari a un prezzo più basso rispetto appunto ai titoli di Stato, a maggior ragione se poi magari gli dico anche i titoli che ti do a garanzia ti do il diritto sui dividendi, no? Per dire, ecco, questo tipo di allusione ha fatto pensare a molti analisti, a molti operatori del mercato che in realtà, appunto, come dici tu, si stesse cercando di trovare dei soldi a un costo più basso su altri canali rispetto a quelli tradizionali, e che quindi più che di privatizzazione e di riduzione del debito pubblico si andasse a parlare appunto di reperire risorse. Però appunto qui non lo riduciamo il debito, lo aumentiamo, questo deve essere chiaro. Questo è la chiosa finale. Cioè, un conto è utilizzare i titoli come garanzia, io ti ripagherò fra 7 anni, in alternativa hai le azioni Enel, ma in questo modo tu stai emettendo nuovo debito. È fatto bene ricordare che per legge, se tu cedessi Eni, Enel, Finmeccanica, i soldi incassati non possono andare sulle spese correnti, chiamiamole così, cioè sul deficit dell'anno, ma devono andare a ridurre il debito e non, quindi, non avresti quindi un beneficio sul saldo finale dell'anno, su quello che è il deficit. Grazie a Laura Serafini del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Professor Piga, lei che è insomma una mente libera, brillante, senza peli sulla lingua, dopo il traffico mi dica se l'ha convinta questa ricostruzione di Laura Serafini e se soprattutto anche lei non legga sotto traccia, anche se non si può ammettere, un bisogno disperato di trovare risorse intanto per far fronte al tema politico dell'IMU e dell'IVA, perché insomma il PDL ha fatto capire in tutti i modi possibili che per loro quella è una linea del piave, soprattutto sull'IMU ma anche sull'IVA. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, la risposta tra un minuto dopo le informazioni sul traffico. Alle 18:19 minuti riprende l'ultima parte di Focus Economia. Professor Piga, ci aiuti lei. Allora, Saccomanni ha corretto, non ha mai formulato ipotesi di vendita. Laura Serafini ha chiarito che tanto anche se cedessimo quote di Eni, Enel e Finmeccanica, a parte che non beccheremo più dividendi, o beccheremo meno dividendi, ma potremmo utilizzare queste cessioni solo per ridurre il debito, non per stare dentro il deficit, quindi non per la spesa corrente dell'anno. E ha detto piuttosto, Saccomanni ha fatto capire che potrebbe chiedere prestiti l'Italia sul mercato e come garanzia dare come collaterale azioni di Eni, soprattutto perché hanno un rating migliore, quindi ci permetterebbero di trovare finanziatori a tassi più bassi. La convince questa seconda ipotesi e non legge sotto traccia una missione che forse, messi così in cassi e uscite, non ci stiamo dentro? Guardi, io sono disperato perché Laura Serafini ha ragione, ma è assolutamente irrilevante che lei abbia ragione, cioè io qua c'ho davanti a me una foresta immensa che brucia e noi stiamo parlando di secchielli della spiaggia, stiamo veramente perdendo tempo. Ora, ci sono vari modi per perdere tempo, io non so se lei ha letto, oggi c'era un'intervista molto interessante a un deputato renziano, che, con tutto il casotto che è successo in Parlamento sulla strategia dei renziani per... il governo, e questo deputato diceva: ma io in realtà dopo questa nostra posizione ho ricevuto centinaia di telefonate di imprenditori che mi chiamano, noi siamo disperati e voi vi mettete a fare queste tattiche, pensate per favore a noi. Quindi questo è un modo per perdere tempo. Un altro modo per perdere tempo è inseguire soluzioni di politica economica assolutamente irrilevanti per la dimensione dei problemi del paese. Queste perdite di tempo sono gravissime. Io, se vuole, le posso parlare di cose serie. È uscita due giorni fa, sono sicuro che lei l'ha già coperto nelle precedenti edizioni, il bollettino economico della Banca d'Italia. Certo. Ecco, però questo bollettino economico, come sempre, la Banca d'Italia è ottima nelle analisi, pecca nelle soluzioni, però tira fuori delle cose molto interessanti. Se vuole gliene accenno alcune. La più importante è che ci sono una marea di dati che ci permettono di fare un paragone tra dove stiamo oggi e dove eravamo quando ci fu la prima botta, quella si ricorda di fine anno 2008 e inizio 2009, no? Quella che poi non ci siamo fatti noi, quella che ci è arrivata dall'America. E le dico, sintetizzando, stiamo come allora e stiamo allo stesso tempo peggio di allora. E ci sono un sacco di frasi rivelatrici della Banca d'Italia. Primo trimestre 2013, investimenti dell'economia italiana meno 3,3%, addirittura meno 4% nelle costruzioni, e dice la Banca d'Italia: mai così male, solo a fine 2008, primo paragone. Secondo, si prende i dati della produzione industriale. La produzione industriale oggi è allo stesso picco negativo che era nella primavera del 2009. Si prenda poi il dato interessantissimo, drammatico, sull'export del primo trimestre 2013 e ci dice la Banca d'Italia: per la prima volta dal 2009 l'export è tornato a diminuire ed è tutto dovuto non alla domanda che viene da fuori dall'area dell'euro, che ancora un po' tira, ma al crollo delle nostre esportazioni rispetto ai paesi dell'area dell'euro, cioè alla politica europea che ci dice nessuno deve domandare a nessuno. Quindi la differenza rispetto a quella crisi è che quella crisi era imposta dall'esterno, questa è da veri sadomasochisti puri imposta da noi stessi, ma c'è un problema in più, è che ci sono due cose, dottor Baesoni, dove stiamo peggio del 2009, sono due cose rilevantissime. Primo, stiamo molto peggio di allora, cioè al picco della crisi del 2008-2009 in termini di occupazione e forza lavoro. E sa perché? Beh, insomma, l'occupazione, perché si rimpingua l'occupazione? L'occupazione si rimpingua se ci sono più assunzioni e meno cessazioni. Quindi di fatto l'occupazione si deprime se lei fa meno assunzioni e ovviamente ci sono più cessazioni. Rispetto al 2009 le cessazioni di lavoro sono simili. Sa qual è la differenza e che spiega perché l'occupazione sta crollando così tanto rispetto al 2008-2009? Che sono molto più forti le minori assunzioni rispetto al 2008-2009, che è un indicatore fortissimo di mancanza di speranza. E l'altra cosa pazzesca rispetto al 2008-2009, i prestiti bancari sono crollati rispetto al 2008-2009, malgrado il costo del credito è molto minore che durante quel picco della crisi, il che significa di nuovo mancanza di speranza e nessuno chiede credito. Allora, se questa è la situazione in cui ci troviamo, che è ancora più drammatica del 2008-2009, per favore, vogliamo parlare di qual è la soluzione? E la soluzione è ovvia, ormai, se no veramente salta l'euro, ma siamo arrivati a un passo, le assicuro, forse non saremo noi i primi, sarà il Portogallo. Bisogna riattivare la domanda pubblica. Il paradosso è che in questo momento ci stanno salvando l'export al Giappone. E come mai ci sta? Perché stiamo esportando secondo lei tanto in Giappone? Perché il Giappone ha ricominciato a crescere? Perché ha fatto quello che noi ci rifiutiamo di fare, cioè fare ripartire la domanda pubblica. Se vuole possiamo parlare anche del perché c'è questo crollo, ma il problema è tutto là. Se non ripartiamo con la domanda pubblica, questo paese esce dall'area dell'euro insieme a tanti altri paesi molto rapidamente. Le pare a lei se io devo parlare dei dividendi e degli interessi? Guardi, non ho niente da aggiungere, Piga. Due anni e mezzo che cerchiamo di spiegare che questa Europa di tagli e di crollo dei consumi, della domanda interna, non va da nessuna parte. Cosa le devo dire? Attenzione, investimenti pubblici non vuol dire spendere soldi per il pubblico impiego, vuol dire spendere soldi per le infrastrutture telematiche, per le strade. Ridurre il carico fiscale in busta paga di chi le tasse le paga, oltre a combattere l'inflazione. Obbligare le banche a fare più crediti. Fatica, eh. Piga, che tempi ci dà? Guardi, io le dico una cosa, qui è in ballo l'Europa, quindi questa è una questione che dobbiamo affrontare tutti insieme in Europa. Noi per parlare in Europa, però, se ci presentiamo soltanto con il piano Piga, non andiamo da nessuna parte, perché ci diranno che come al solito vogliamo spendere e basta. Quello che dobbiamo fare, e purtroppo vedo che da via 20 settembre questo non parte, c'è poco da fare, se noi non presentiamo assieme al piano di rilancio della domanda interna, che tra l'altro non deve essere solo italiano ma europeo, la spending review, per cui noi allo stesso tempo li stupiamo, perché diciamo guarda, noi i fondi non li facciamo in deficit, noi tutta la buona spesa pubblica la facciamo con i tagli agli sprechi che arrivano a 40-50 miliardi, qui si dice che non ci sono fondi, non ci sono soldi, ma non è vero, ma se non parte la spending review, perché non è stato sostituito Bondi? Perché Monti, tra le poche cose che ha fatto bene, ha dato il potere, di fatto ha creato un secondo ministro, ha dato il potere della spending review a un signore. Dov'è Mr. Bondi, che poi ha fallito per mille motivi, e quindi dobbiamo farlo molto meglio? Ma se non cominciamo a nominarlo, e per favore non nominiamo Giarda, che è un meraviglioso mio collega, ma che ha un'età dove ovviamente il segnale, abbiamo bisogno di un team di 200 persone giovanissime, come ha fatto Obama, che girano tutto il paese per trovare gli sprechi, altro che il professor Giardo e il professor Piga, che hanno 50 anni o 60 anni. Andiamo a mettere un team fortissimo e andiamo in Europa dicendo no, l'Italia vuole più investimenti pubblici, li vuole per tutta l'Europa, ma al contempo li troviamo i finanziamenti dal taglio agli sprechi. Quindi quello che le rimane della domanda pubblica è vera domanda di cose che servono per l'economia e che aiutano le imprese a produrre e a domandare lavoro. A quel punto, quando torna la speranza, il settore pubblico se ne esce dall'economia. Ma se non prendiamo in mano subito, andando in Europa, questa situazione, andandoci in maniera credibile, perché se andiamo, lo ripeto, a chiedere semplicemente di spendere, si fanno una risata. No, no, ma io guardi, sono d'accordo, lo diciamo tutti i giorni, il doppio binario, tagliamo le spese improduttive in questo paese. Ieri ho fatto la battuta sull'orso Yogi, forestali calabresi, ma insomma ne abbiamo raccontate per 2 anni e facendo i compiti a casa, però bisogna avere il coraggio di deludere anche alcuni funzionari dei ministeri, di andare contro alcuni direttori di dipartimento, di andare contro un po' di consenso politico sul territorio, cioè di fare i politici, non gli accalappiatori di voti. E allora a quel punto tu puoi andare in Europa e dire: signori, noi qua abbiamo una spending review che fa sì che riduciamo la spesa pubblica improduttiva di 10, 20, 15 punti, e a questo punto chiediamo, se no usciamo dall'euro, chiediamo che l'Europa parta con un piano di investimenti da non contabilizzare nel deficit dei singoli paesi. Piga, viva lei, ma soprattutto io direi, speriamo di non restare solo io e lei a raccontarci queste cose nella Repubblica di San Marino fra un po', che non è nemmeno un posto che mi faccia impazzire, con massimo rispetto per la Repubblica del Titano. Io le auguro buon fine settimana, non è che mi abbia messo sta botta di entusiasmo, di allegria, ma non era questo il suo compito. Grazie all'economista Gustavo Piga, da Sebastiano Barigioni l'augurio a voi di un buon fine settimana, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.